Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Da che paese vieni? Cosa? Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? È nero! Vai avanti! È senza capelli! Secondo te sembra una puttana? Cosa? Secondo te, lui ha l'aspetto di una puttana? No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto, Brett! Hai cercato di fotterlo! Ma a Marcellus Wallace non piace farsi fottere da anima viva, tranne che dalla signora Wallace! Leggi la Bibbia, Brett!